E siamo aspettarci tutto e niente, nel senso che le dichiarazioni che vengono da entrambe le parti, quindi dagli Stati Uniti e dalla Corea del Nord, sono insomma, estremamente bellicose. Fino a questo momento quelle che vengono considerate le provocazioni nucleari e missilistiche di Kim non hanno, come dire, sortito le conseguenze annunciate dagli Stati Uniti, quindi non c'è stato un intervento militare. Speriamo che non ci sia, anche se recentemente l'ambasciatore statunitense all'ONU Nikki Haley, non solo recentemente ma non in tutto il percorso che ha riguardato le sanzioni da imporre alla Corea del Nord, non ha mai, come dire, mancato di ricordare che tutte le opzioni sono sul tavolo, e lo stesso presidente Trump ha detto ancora recentemente che un altro test, un'altra provocazione da parte della Corea del Nord avrebbe sicuramente generato un intervento militare da parte degli Stati Uniti, che però non c'è stato. Allora, una domanda sulla tecnologia nordcoreana: è in grado di arrivare a colpire gli Stati Uniti? È in grado di essere pericolosa? Questa è la domanda più difficile, direi, a cui rispondere, nel senso che ovviamente il livello di conoscenza del paese in generale è molto basso, e quando si parla di questioni sensibili come le tecnologie militari la cosa si fa ancora più critica. Di sicuro il programma di avanzamento sia missilistico che nucleare del paese è straordinario, nel senso che i progressi sono molto evidenti. Penultimo test nordcoreano ha portato alla luce l'esistenza di una tecnologia capace di far esplodere una bomba all'idrogeno addirittura più potente di quella di quelle che furono sganciate sul Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, un paese che dalla comunità internazionale e da alcuni osservatori veniva dato per spacciato, in realtà, nonostante le sanzioni e l'isolamento internazionale, riesce ad esprimere una qualche proiezione militare. Se è capace di raggiungere gli Stati Uniti non lo so, però di sicuro è già capace di colpire una serie di alleati degli Stati Uniti nell'area. Seul, capitale coreana, è a poche decine di chilometri dal confine tra le due Coree, e il Giappone è stato recentemente sorvolato ben due volte dai missili nordcoreani, quindi insomma c'è di che preoccuparsi. Dimenticavo di citare Guam, il territorio degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale, che sicuramente è sotto il tiro, comunque potenzialmente è un potenziale bersaglio dei missili lanciati da Kim. A proposito di Corea del Sud, il nuovo presidente Moon era stato, come dire, annunciato, la sua elezione era stata annunciata come un ruolo di pacificatore. Lui sarà, come dire, allineato sempre comunque con gli Stati Uniti, o potrebbe invece avere una linea più indipendente? La cifra di questa vicenda è duplice. Direi, da un lato ci sono le dichiarazioni di intenti ancora non venute meno da parte del presidente Moon, che sostiene di voler perseguire il dialogo con la Corea del Nord, cosa che comunque attualmente non ha comunque registrato, diciamo, dei dati significativi, nel senso che più volte membri dell'establishment sudcoreano hanno detto che insomma non è ancora il momento per implementare questo dialogo. Viene da chiedersi quale sarà il momento più opportuno allora. Quindi da un lato ci sono le dichiarazioni di intenti, dall'altro lato c'è un'alleanza di fatto fortissima che consiste di continue e permanenti esercitazioni militari, le stesse che sono state poste sotto accusa dal governo cinese come fonte di destabilizzazione, insomma, della pace nella regione. E dall'altro lato, dimensione ancora più sensibile, l'installazione del sistema antimissilistico PAD in Corea del Sud per volere del governo degli Stati Uniti. Si parla di un progetto iniziato già sotto la presidenza Obama, quindi insomma non imputabile alla presidenza Trump, ma che comunque viene portato avanti anche dal gabinetto dell'amministrazione Trump, e che segna comunque sul terreno un'alleanza di fatto che difficilmente si inclinerà a causa delle dichiarazioni del neo eletto presidente sudcoreano. Quale può essere il ruolo degli altri attori in gioco? La Cina, la Russia e il Giappone? La Cina, la Russia, il Giappone ha un ruolo molto determinante, anche se erroneamente si è spesso creduto, per esempio riguardo alla Cina, che potesse esercitare una qualche forma di coercizione nei confronti della Corea del Nord. Ecco, questo è estremamente sbagliato, è falso, tant'è che lo stesso establishment cinese è abbastanza infastidito, diciamo, da quello che il vicino di casa nordcoreano continua a fare da un paio di anni a questa parte. Di sicuro c'è che attori come la Russia e la Cina, che tradizionalmente non vengono considerati molto affidabili dai governi occidentali, in realtà stanno cercando di portare, soprattutto il governo cinese e il ministro degli esteri Wang Yi, stanno cercando di portare, di riportare le parti al tavolo, a un tavolo, diciamo, di dialogo e di negoziazione. Da parte degli Stati Uniti comunque non c'è assolutamente la volontà di implementare questo tavolo, se non a condizione che il regime nordcoreano abbandoni le proprie velleità e i propri programmi nucleari, ma questo, come si è già visto, non succederà. Quindi se è la pace quello a cui, diciamo, si mira, è il paradigma che va cambiato, quantomeno da parte degli altri soggetti in gioco.